E giuco, ma che a me giuco tu sì? E giuco neanche a venies. Lascia star, e giuco. Stato bene, mamma? Non sti pensare che vai a pisar, no, aga vergogna di me. Qua un pochettino della mia famiglia resto solo di qua. Finale giù con rivarento bodega, ma pelà pipelà cacareca di Neias. Niente fiorini scarsera. Ma lascia star che lui. Ecco che ne è un ben careca. Pipelà che ti. L'iso che neanche con dei ghim appena fatto. E rivarento da bodega, ma esperto, leggero, ligato, no? E rivarento da bodega, come tutti i ciuchini. Io via da mai. E comincia già, 400.000 scarsele, tiri fuori tutte vode. Bodeghero, dammi un trago. Bodeghero, per non coparlo, no? Va là che uda il trago. E Lucio. Ma certo, bodeghero, che pensando ben, ti mi trucchissi per una birra. I bodegheri va tutti al paradiso, sapete, no? Parno d'arche un pugno e sverde che a testa, ciappa sta birra, daghe sta birra, e ciappa il trago e porta via, ecco. E allora lui laccia, che si posta per ciappare sta birra. Neanche è buon stare in piedi, e braga e metà, culate così, eh? E laccia, e ciappa sta birra, una ora e mezza, l'appa sto ciucco beve sta birra. La de una scianta tenendosi e il va a banda alla porta. E non parla di pagare. Quando arriva ta porta il bodeghero ormai lagro, ciò, mi paghi tu mia sta birra? E lui ciò, me da ora per voltarsi, Andrio. Se non la avevamo truccata per un trago. E il bodeghero, che non sapeva cosa fare, gli ha detto, ma allora il manco paghi me il trago, no? Se non lo conosco neanche bevesto.